E diamo il buongiorno anche a un'altra redattrice di Onda Rossa. Ciao. Ciao. Di nuovo in diretta da piazza in noi diciamo piazza Indipendenza, stavo per dire piazza Indipendenza, invece è piazza dell'Esquilino, quindi la piazza dell'Esquilino, dove c'è il corteo dei movimenti per il diritto all'abitare, visti gli ultimi sgomberi, soltanto due nel mese di agosto. Quindi facci un po' il punto della situazione. Abbiamo raccontato prima delle perquisizioni, dei blocchi, delle transenne, però anche del fatto che si stava cominciando a riempire la piazza. Sì, buon pomeriggio a tutti e a tutte. In questo momento la piazza è già stracolma di persone, insomma, che sono venute per portare la propria solidarietà sulla questione degli sgomberi. Vediamo che la piazza continuerà a riempirsi nei prossimi minuti, è un segnale sicuramente molto importante dopo quanto successo rispetto a Via Curtatone, a Piazza Indipendenza, che sicuramente ha aperto i riflettori sulla modalità con cui in questa città non viene gestita l'emergenza abitativa, o meglio, non viene gestita politicamente ma solo tramite soluzioni in divisa. Le scene viste a Piazza Indipendenza sono scene di violenza che abbiamo visto ripetersi anche nel precedente sgombero di Via Quintavalle, di Via Quintavalle 88, dove, lo ricordiamo, durante il quale 11 compagni furono arrestati e 37 denunciati a piede libero per la resistenza contro lo sgombero dell'immobile. A questo punto dentro la città vi sono due situazioni di sgombero e per entrambe non è stata predisposta alcuna soluzione. Addirittura per via Quintavalle e i suoi abitanti, che al momento vivono accampati alla Basilica di Santi Apostoli, non vi è stata nemmeno la foglia di fico dei posti proposti in situazioni comunque totalmente distanti dalle esigenze alloggiative che si richiedevano. E quindi la parola d'ordine di questo corteo, che si preannuncia molto largo e che vede anche delegazioni da altre città, è quella di dire che gli sgomberi si devono fermare, che comunque sia il problema della casa non può essere gestito come materia di ordine pubblico. Questa politica irresponsabile della tensione deve finire e le istituzioni devono sedersi a un tavolo e trovare una soluzione prima di tutto per i primi sgomberati, e quindi per via Curtatone e via Quintavalle, e dopodiché iniziare a predisporre un'attuazione reale della delibera regionale per l'emergenza abitativa.